un falco. Certo quest'ora i miei sei oggi le due prede azzampano. Domani sul palco vedrà l'aurora Angelotti e il bel merito. Sia pur in traccia. Questo biglietto e lo verrà. Era amor del suo Mario. Era amor del suo Mario, al piacer mio, sarà.